Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Metello appoggiava il piede sul sasso sopra cui sedeva e con le mani intrecciate si sorreggeva lo stinco. Senza voltarsi, ma a voce alta perché tutti lo potessero sentire e non c'era adesso chi non gli richiedesse intimamente di parlare, disse: «Un mese e mezzo fa, a Monterivecchi, si fu tutti d'accordo a incominciare questo sciopero e nessuno si nascondeva ai sacrifici a cui si sarebbe andati incontro. Miseria per miseria si disse: proviamoci, sono salari di fame, non se ne può più. Se andrà bene, si sarà fatto un passo avanti. È vero o no? E che si dovesse resistere il più a lungo possibile, non fu tanto del buono a dirlo, quanto uno per uno, tutti quanti siamo. Ragion per cui, arrendersi proprio oggi, che siamo sul punto di averla vinta, mi sembra uno sproposito. È inutile ripigliare da capo la discussione. Del buono si trova alle murate, e non lui solo. I soldi della sottoscrizione stanno per arrivare. In più, tutti gli iscritti alla Camera del Lavoro, di qualsiasi mestiere arte, sono pronti a darci una mano. Questi sono fatti accertati. Si tratta di digiunare un altro paio di giorni. Non è poco, lo so. Ma una luce ora c'è. La si vede. Non si va più alla cieca come 24 ore fa. Tuttavia, se, come diceva Lippi, invece che per queste considerazioni voi altri non tornate sul lavoro per un riguardo verso di me, verso di lui e verso Minta, anch'io, per conto mio, vi libero da questa gentilezza. Chi vuole non abbia scrupoli, metta la firma, si leghi il sasso al collo e festa finita. E tu, hai finito? Gli chiese Friani. No, voglio dare un'altra spiegazione. Parlando, sceglieva le parole, appunto perché voleva che esse avessero un senso preciso e non si prestassero in seguito a delle recriminazioni. Il suo temperamento di uomo cresciuto tra le ottusità e le sottigliezze della gente contadina e via via affinatosi nelle diverse esperienze che la vita e il lavoro in città gli avevano offerto, la sua intelligenza modesta ma quadrata, la sua generosità e la sua furbizia, la coscienza, infine, delle proprie idee che egli era sicuro di aver acquisito, facevano la loro grande prova. Egli capiva che, come un mese prima, quando era avvenuto lo scontro con Badolati, i suoi compagni si aspettavano un esempio e di doversi caricare per tutti loro del peso di cui anche il decano si era voluto disfare. La solidarietà che essi gli stavano prestando lo rendeva maggiormente responsabile del destino comune più immediato, e che tra i pochi di già passati dall'altra parte della barricata ci fosse Olindo, ora, invece di amareggiarlo, lo eccitava. Era guardando avanti a sé, al di là dei soldati e degli agenti, e cercando di individuare Olindo tra il gruppetto dei crumiri che parlava. Dondolando appena col busto e reggendosi la gamba, continuò: «Io vi dispenso da sacrificarvi per me, se questo, oltre ad essere un sacrificio dal punto di vista del mangiare, vi sembra un sacrificio anche agli occhi della mente. Perché, datemi dello zuccone e dell'ingrato, ma secondo me non mettere quella firma è nel vostro interesse». Si portò una mano alla faccia e se la passò sulla bocca e sul mento. Si riversò un poco indietro e guardò da una parte e dall'altra i suoi compagni che gli stavano attorno in fila. Il primo a rispondergli fu Duili. Disse: «C'è davvero un ingrato, ma hai ragione». Gli altri, tutti, sembravano assentire, forse più d'uno si preparava a rispondere, faceva posto a un pensiero prima di esprimerlo. Il decano disse: «Voglio vedere come ti comporti ora che quelli escono di direzione». Metello si era rivolta a Friani. «Tu cosa volevi dire?» Friani scosse la testa e accennò un sorriso. «Una cosa sola, che non metterei la firma nemmeno dopo che mi avessero tagliato tutte e due le mani. Ma proprio per le ragioni che hai portato, non diventerò mai socialista e resterò anarchico tutta la vita». Come coloro che avrebbero voluto interloquire anche loro, Metello non poté rispondergli. L'ingegnere e il suo seguito stavano uscendo di direzione. Badolati parlava al nipote e al figlio di Maddii, che risalirono sul calessino. Metello ebbe un'idea. Chiamò il piccolo Renzone e gli disse: «Scappa! Vai a vedere come stanno le cose al cantiere di Maddii, e se non sanno nulla degli altri, mettiti le gambe in collo, torna più presto che puoi». Renzoni piccolo risalì la massicciata aiutandosi con le mani e si precipitò dall'altra parte del lungo mugnone. Sempre correndo raggiunse Ponte Rosso e pareva che, non volendo, il calessino ora lo inseguisse. prima che gli fosse di ritorno, a portatore di una grande notizia, così gli sarebbe sembrato, sullo sterrato prospiciente le impalcature del cantiere Badolati, qualcosa doveva ancora accadere. Ciascuno di quegli uomini avrebbe dato la misura del proprio animo. L'ingegnere avanzò, col questurino in bombetta e il sottufficiale che gli facevano ala e che si arrestarono a qualche passo di distanza. Gli uomini erano in piedi, l'uno accanto all'altro, i pollici nei taschini del panciotto. Ora il sole metteva allo scoperto tutto lo sterrato e via via, ingoiando l'ombra, era arrivato sotto la massicciata. Essi lo avevano alle spalle, mentre Badolati ne era investito in pieno. Giunto al di là della striscia d'ombra, si era tirato il cappello sulla fronte, spingendolo dalla nuca. Quindi, le mani dietro la schiena, più ingobbito del solito, disse: «Ma vi ha proprio dato di balta il cervello!» Accennò col mento, ora il maresciallo, ora il questurino, alzò la testa verso le impalancate. «Scomodare l'esercito e la questura, e in tanti lavori stanno lì ad arrugginire!» Tacque. Sembrò riprendere fiato o sospirare. «Non crediate che vi parli così perché ho intenzione di calar le brache. Vorrei soltanto sapere cosa debbo pensare. Se c'è qualcuno disposto a spiegarmelo, mi fa un piacere!» Lo guardavano in silenzio, ed egli vedeva cotesti occhi che gli facevano un muro. Capì che la breccia aperta da quei sette che avevano trascorso la notte nel dormitorio si era richiusa. «Rispondimi te, Lippi, che sei il più vecchio!» Lippi si tolse di bocca il cannuccio della pipa, infastidito che gli toccasse questo privilegio. Non di meno era pur sempre il decano, e parve dimenticarsi d'un tratto dei propositi espressi qualche minuto prima, siccome disse: «Si rivolge a me? O non mi aveva licenziato? Bastava tu venissi in direzione, e tutto si sarebbe chiarito!» Questo sull'avviso non c'era scritto. «Eppure mi conosci, da quant'anni?» «Una trentina, anche di più. Ho lavorato da manovale con suo padre. E dunque? Ti risulta che quando qualcuno mi ha chiesto di venirgli incontro io l'ho lasciato morir di fame?» Qui Lippi, sempre più insofferente, col sangue che gli saliva alla testa, disse qualcosa che davvero sul momento avrebbe potuto rendere la situazione anche più tesa. «Crispi non ci si doveva più trovare, e invece c'è. C'è perché ci deve essere. Ecco, lo vede? E sa cosa le dico? Anzi, non le dico nulla. Le chiedo se non le sembra di deviare!» L'ingegnere gli si avvicinò di un passo, entrò nella striscia d'ombra e faccia a faccia, le mani sempre dietro la schiena. «Io non devio, Lippi. Io ho sempre seguito una linea. Siete voi altri che avete sconfinato!» Il decano sostenne il suo sguardo, sembrò scandire le parole, la pipa alzata all'altezza del proprio viso e agitandola di qua e di là dalle due parti della fila. «Questa, ingegnere, è un'altra generazione», disse. «Mi permetta di spendere due parole. Quando ero giovane io, gli imprenditori come lei mandavano i caporali ad ingaggiarci. Noi si stava in fila davanti al loggiato di piazza della signoria, dove erano le poste, e si aspettava, come delle puttane proprio. Si portava ancora i grembiulini alla vita, se ne ricorda? Era la nostra divisa di lavoro. E c'era sempre chi si offriva per meno, ci si rubava la fatica l'uno con l'altro.» Sembrò commuoversi di se stesso e di ribellarsene. Subito concluse: «Questa è un'altra generazione. L'ho capito io che non so né leggere né scrivere. Possibile che non l'abbia capito lei che ha studiato?» «Allora c'era più rispetto, Lippi, e c'era meno lavoro», disse l'ingegnere. «Può darsi, ma mi lasci perdere, la prego.» Lentamente si sedé su una pila di mattoni. «Io ho già rappresentato la mia parte in commedia.» Egli sedutosi, nella fila rimase come un vuoto, e cotesto vuoto, idealmente, sembrò riempirlo l'ingegnere. Metello gli era accanto e lo guardava. Badolati fu sul punto di rivolgergli la parola, ma si trattenne, ostentando di volerlo ignorare, come aveva fatto fino ad allora. Gli voltò le spalle e risalì la fila. «Come alle cascine, durante la rivista il giorno dello statuto», si disse poi. L'ingegnere sembrava il generale, e non aveva l'aria di distribuire degli encomi, ma piuttosto di decidere una decimazione. «Perché lo sappiate, dalla Lucchesia e dalle Calabrie, dove non c'è il lavoro che c'è qui, sono pronti a trasferirsi a Firenze diecine e centinaia di muratori e manovali. Non fanno questione di tariffe, gli basta trovar da lavorare. Ora, uno per uno, mi dovete dire se questa è la vostra ultima decisione.» A capo della fila c'era Ugo Parigi. era stato fornaciaio e di ritorno dal servizio militare 2 o 3 anni prima, non avendo più trovato il suo posto, per simpatia, diciamo, era venuto sui cantieri. Era un ragazzo pieno di vita, suonava la cornetta nella filarmonica delle Caldine, stava per diventare mezzo muratore, quest'inverno si sarebbe dovuto sposare. Durante lo sciopero si era mangiati i primi risparmi destinati al letto e all'armadio. Amico di tutti, dove andavano i più, andava lui. «Tu!» gli chiese l'ingegnere. «Io faccio quello che fanno gli altri. Gli altri sono anche quelli là che la firma l'hanno messa da ieri sera. Io dico gli altri questi, gli altri noi», precisò Parigi, «quelli di questa fila. Non ci siamo intesi. Voglio conoscere la tua opinione personale. Sei un uomo, non una bestia. Ne avrai una!» Parigi si strinse nelle spalle. Guardò istintivamente verso Metello. «Guarda me, non guardare altrove!» «Ma», disse l'ex fornaciaio, «dal momento mi trovo in questa fila, sicché posso anche sostituirti con un napoletano, con un lucchese? Se le sembra che questo sia ragionevole, per Dio se è ragionevole! E tu?» Il secondo era Duili. «Si è chiesto 6, 4 e 3 soldi di più allora. Perché lei non ci ha detto, ragazzi, vi do la metà, vi do un terzo, vi do un diecino? Né lei né gli altri impresari sareste andata alla rovina. Vi mandiamo ma voi altra alla rovina. Purtroppo noi ci siamo stabili», replicò Duili, «ma è che dalla rovina siamo passati alla disperazione. È una brutta bestia, ingegnere!» Il sole aveva risalito la massicciata e invaso tutta la scena. L'ingegnere si alzò il cappello sulla fronte e disse: «Vi ho chiesto un sì o un no, non dei paragoni». «Tu», disse al terzo, e la forza del discorso lo indusse a far dell'ironia. «Se non c'era da ammettere la firma, saresti già sui ponti oppure no?» Era Santino, che aveva Don Albertario dentro il cuore. Senza esitazione rispose: «Ora non è più questione, cioè... quei licenziamenti lei li dovrebbe ritirare, vede? Io a casa ho la donna e un bambino, non sono ancora mezzo muratore, per cui c'è poco da scialare. Lei, anche lei è un cristiano, e quelli che intende licenziare, lo stesso sono dei cristiani, e hanno una famiglia». Si impappinò, disse: «Ora io non so più parlare, ma se loro hanno sbagliato, non hanno sbagliato più di quanto non si sia sbagliato noi». Un muro. Le parole calcinavano gli sguardi. Badolati ci cozzava contro. E fosse il sole, fosse il sangue, che anche a lui saliva alla testa, si sentiva la fronte imperlata di sudore, e più acuto il formicolio dalla parte del cuore, che da qualche tempo lo tormentava. Non trovò che rispondere, o non volle. «E tu?» chiese al quarto della fila. Era il muratore fiesolano, che si chiamava Pomelo, per via dei suoi capelli rossi. Mosse il capo per indicare Santino e rispose: «Come lui? Come ha detto lui?» Le parole del Santino, le più proprie, avevano sopito l'orgasmo in cui si dibattevano coloro che seguitavano la fila. Da quel momento, affrontare Badolati e sostenere il suo sguardo e rispondere con sufficiente persuasione alla sua domanda divenne più facile per tutti. Il padrone voleva costringerli ad assumere una posizione che li avrebbe scoperti e fatti individuare una volta per sempre. Mentre ripetere ciò che aveva detto il Santino e che coincideva con lo stato d'animo comune, gli permetteva di trincerarsi ancora dietro una responsabilità collettiva, non tradirsi e non tradire. Ora, via via che Badolati risaliva la fila, il muro, proprio là dove nell'interno i mattoni erano più vuoti, risuonava come un calcare. «E tu? Come lui? E tu? Come lui? E tu? Come ha detto il Santino, cioè Meoni? Come il Pomero? Come lui?» Fu la volta di Friani che rispose: «Lei, ingegnere, è un uomo che conosce il suo mestiere. Ma perché non si limita a firmare i contratti e dirigere i lavori? Le lasci fare ai suoi servi queste figure?» Badolati lo fulminò. Stringeva i denti e ansimava per via del caldo, di quel dolore dalla parte del cuore. Friani gli sorrise. «Lei si fa cattivo sangue e scade di prestigio. Glielo dico perché la stimo. In quanto al resto, non avrei nessun interesse. Sono digiuno da 48 ore e ho dormito su una panchina. «Io non so chi vi dia tanto coraggio», disse Vadolati, e il decano, a cui si era ritrovato nuovamente vicino, seduto com'era, ripeté: «È un'altra generazione. Noi s'era buona a farci legare. Ne mettevano dentro una mezza dozzina e tutto era finito». Vadolati prese il fazzoletto di tasca e se lo passò sulle labbra, sulla fronte e dietro il collo. Ora si trovava faccia a faccia con Metello, al di là del quale la fila si prolungava di un'altra diecina di uomini. Più avanti c'erano gli orti. Quei contadini, che presto sarebbero stati sloggiati dalle nuove costruzioni, erano venuti sotto la rete e assistevano alla scena. Nel silenzio si udirono le cicale, poi il fischio del treno, e abbaiò un cane, gli rispose il lupo di Crispi tenuto a catena. «Vieni con me, Salani, ti voglio parlare!» Metello guardò attorno i compagni, come per chiedere a ciascuno di loro un tacito consenso. Friani disse: «Sta attento, può essere un tranello per isolarti e farti ammanettare!» «Sarebbe capace», egli pensò. La giacca che aveva sulle spalle gli era scivolata di lato. Fermarsi gli venne naturale. «Noi non abbiamo segreti. Segreta è la fame», disse Duili. E il decano: «La fame, la sifilide e la paura». «Da che siamo scioperanti, è la terza volta che lei ci tiene un discorso», Metello disse. «Ma i discorsi non portan pane». Vadolati si voltò, scosse la testa e incrociò le braccia. Quindi cavò dal taschino mezzo toscano e prima di rispondergli l'accese. Un fiammifero gli si spense mentre lo sfregava, un altro quando il sigaro non aveva ancora preso. Il poliziotto in bombetta e i due agenti si erano avvicinati. Lentamente, ma a largo, anche il gruppo dei crumiri era avanzato, parallelo al plotone dei soldati. Quei contadini si portarono innanzi di qualche passo rasente la rete. Vadolati si tolse il sigaro di bocca e disse: «Se il brigadiere non ti ha costretto a sloggiare, è perché gliel'ho chiesto io come un piacere. Spero che questo tu l'abbia capito. E allora perché non ti fidi?» «Di lei sì, mi fido. Quello che ha detto Friani è anche la mia opinione. Ma è dei suoi interessi che ho paura. I miei interessi gli hanno sempre dato da mangiare. Poco, se no non ci si troverebbe a questi ferri». Erano due uomini ugualmente carichi di odio e capaci di uccidersi l'un l'altro se avessero potuto. D'altronde si conoscevano troppo bene per potersi disprezzare. Uno teneva il coltello dalla parte dell'impugnatura, l'altro lo stringeva a metà della lama. Questa era la differenza. «Sei una carogna, Salani. Uguale a mio suocero. Me l'ha già detto tempo fa. Non uguale, peggio. Ci credo, mio suocero era d'una pasta diversa dalla mia. Fosse ancora vivo, non gli legherei le scarpe, ma è morto, e se ne rammenta come... Misura le parole, te ne potresti pentire. Era questo che mi voleva dire? Speravo mi volesse parlare di come mettersi d'accordo per trovare una via d'uscita. Lei crede che per noi sia un divertimento? Eh? Ci tremano le mani dalla disperazione!» Un mormorio percorse le file degli uomini ridossa alla massicciata, e senza volerlo, sull'empito di codesto consenso, Metello stava alzando la voce, si tratteneva la giacca ai risvolti, ed era come proteso verso l'ingegnere. «Ci passa agli occhi a vedere il lavoro lasciato in tronco quanto a lei. Lei è quasi sempre sui ponti con noi, ci conosce, lo sa se fatichiamo, si metta una mano sulla coscienza. Abbiamo chiesto una miseria, e negarcela fino a questo punto significa proprio non aver cuore». Non fu Vadolati a rispondergli, ma il tedesco, di mezzo al gruppo dei crumiri dove si trovava, qualche passo lontano. «E voi altri, non avreste più dignità a tornare sul lavoro?» Olindo gli fece eco. «Non se ne può più un Metello! Basta col provocare!» Volarono gli insulti, anticipando la scazzottata, la rissa, i colpi di pistola, la fucileria. «Vagabondi, crumiri, delinquenti, ladri!» Tutto accadde nel giro di secondi. Il tempo che uno stormo di rondini volteggiò sopra le impalancate e si disperse dalla parte della ferrovia. C'è ancora da chiedersi come non accadde la strage. Un miracolo, si disse poi. La fortuna, il caso, la mano del Padre Eterno, disse Santino. Lippi e Friani si erano mossi per primi, diretti su Olindo e sul tedesco. Gli agenti e il comandante dei soldati avevano cavato le pistole. Nardini disarmò Crispi di sorpresa, scattando nell'istante medesimo in cui l'ingegnere urlava «Fermalo, quel dannato!». Intanto Metello cercava di arginare la più parte dei compagni lanciatisi contro i crumiri. Riuscì a trattenere Duili e Parigi piegandogli le braccia. Così si accese la mischia. Friani e il tedesco, sgambettatisi a vicenda, lottavano per terra. Ora il tedesco, inchiodato l'avversario col ginocchio sul petto, lo schiaffeggiava. Santino aveva immobilizzato Lippi abbracciandolo alla vita. Olindo, liberatosi dall'assalto del decano, tentò di fuggire. Ma gli furono addosso in due, in tre, in cinque. Lo sommersero sotto i pugni, gli insulti e gli sputi, come la sera avanti in piazza Cavalleggeri, si disse. Ma questa volta i militari erano armati. Una scarica di fucileria mise in fuga le rondini e agghiacciò coloro che si colluttavano sullo sterrato. Si era sparato in aria o rasente le teste? Da cotesto momento tre furono in seguito le versioni, quella dei muratori, quella dei questurini e quella dei soldati. L'ingegnere, lui avrebbe sempre ripetuto che tutto era successo in un modo così rapido e confuso da non potercisi raccapezzare. Certo è che dopo la scarica di fucileria la rissa era sedata. I muratori avevano abbassato le mani o si erano rialzati, spolverandosi i vestiti, borbottando delle maledizioni. Quindi, fosse l'istinto di conservazione, la paura o una solidarietà spontaneamente ritrovata, strettisi l'uno all'altro, gli scioperanti e i crumiri formavano un gruppo solo. In mezzo a loro, il decano era l'unico a restare seduto per terra. Le gambe distese e la testa tra le mani mormorava: «Si perde il lume degli occhi qualunque sia l'età e non si dovrebbe». Il giovane Parigi si piegò sui calcagni per essergli vicino. Ora i militari, su due file di cinque, come per una vera e propria fucilazione, si disse, tenevano i moschetti puntati. «Ma siete pazzi a sparare!» aveva gridato il tedesco. Era avanzato di un passo, e dietro di lui sembrò che un po' tutti muovessero incontro ai militari, agli agenti, all'ingegnere e ai due caporali accosto anch'essi, quasi sulla stessa linea. Metello stava a fianco del tedesco, disse: «Non siamo dei banditi, c'è salito il sangue alla testa, ora è tutto finito, voi non c'entrate!» Friani gridò: «Avete i calli alle mani come noi, militari! Siete degli uomini liberi, non vi fate comandare!» Grida, pugni chiusi e protesi sostennero le sue parole. «Vi do tempo fino a tre per tornare indietro», gli intimò il delegato. Come lui, gli agenti e il sottufficiale avevano tolto la sicura alla pistola. Aggiunse: «Vi trovate subito d'accordo quando c'è da ribellarsi alla forza pubblica, farabutti!» Qui intervenne l'ingegnere. Si asciugava il sudore sulla fronte e sul collo. «È la prima volta che succedono di queste cose sul mio cantiere!» Si mosse Nardini, fece per raggiungere il gruppo dei lavoratori. «Smettiamola, ragazzi, non è stato nulla, via!» Ma il delegato lo fermò, impedendogli il passo col braccio, con la stessa mano in cui teneva la pistola. «Lei resti qui!» Metello disse: «Lo sappiamo, Nardini, che tu sei una brava persona. La figura del caporale non ti s'addice. È per il bene comune», gli rispose Nardini. Il tedesco disse: «Ma è naturale!» E portato dalle proprie parole, passò un braccio attorno alle spalle di Metello, lo sospinse accanto a sé e verso coloro che li fronteggiavano. «Incidente chiuso», disse, «e chissà che queste buone lane non abbiano cambiato opinione». Il gruppo dei muratori gli venne dietro. Il decano si era alzato appoggiandosi alla mano di Parigi. «Non vi muovete», gridò il delegato. «Fermatevi, maresciallo», gridò. «Attento!» Una frazione di secondo. Come s'accende un lampo nelle notti d'estate, come d'un tratto il sole precipita dietro le case. Partì il colpo di pistola che sfiorò Metello e colse in pieno petto il tedesco. Lo rovesciò bocconi. Nel silenzio che seguì, un attimo ancora, l'abbaiare del cane alla catena parve un latrato. Subito, invece di disperdersi o di assistere il tedesco, il gruppo dei muratori si slanciò in avanti, urlando. Ci fu una sassaiola. Colpì due soldati e crepitò la fucileria. Una scarica, due. Mentre, sempre sparando i soldati e i tre agenti che impugnavano le pistole, arretravano come per attestarsi al riparo della direzione e del dormitorio. Un miracolo. La volontà divina, la fortuna, il caso, o il bersaglio umano era troppo ravvicinato, o quelle mani callose tremarono e istintivamente rialzarono la mira. I muratori erano un gruppo compatto, come sparare su uno stormo, su una mandria, su più sagome ammucchiati a 10 passi di distanza. Non di meno, anche le revolverate dei questurini sembravano andare a vuoto. Sull'istante, Duili quasi non si accorse di avere un polpaccio forato, né il pomero sentì un bruciore particolare alla spalla, né Santino, infine, si rese conto che quel rapido sfruscio, avvertito davanti agli occhi, gli aveva rigato la fronte come il graffio di un'innamorata. La terza scarica li aveva ridotti alla ragione. Metello, Friani e il Santino si chinarono sul tedesco. Gente era accorsa dalla parte della ferrovia, giù per la massicciata, quei contadini da dietro la rete, e l'ingegnere e Nardini, malgrado le imposizioni del maresciallo e del delegato. Il tedesco si era voltato supino. Poi da solo si mise seduto, fece per rialzarsi, barcollò e lo dovettero sorreggere. «No, no!» ripeteva. «Non è nulla, non mi duole. Ecco come vanno a finire le cose. Ha visto ingegnere?» Di lì a poco, un braccio attorno alle spalle di Metello, l'altro attorno alle spalle di Santino, poté camminare e raggiungere la direzione. «Non mi duole, no, no, non mi duole!» e bestemmiava. Badolati si asciugava la fronte, i labbri e il viso. «Meno male!» diceva. «Meno male, meno male!» Gli aperse la porticina della direzione. Entrarono il ferito e i due che lo sorreggevano, e Friani, e Nardini con la cassetta del pronto soccorso. Il tedesco sedé sulla sedia del padrone, gli dettero dell'acqua e la rifiutò. «Fosse vino», disse, «ma non è ora, e poi sul primo momento non si dà mai da bere a un ferito. Me l'hanno insegnato in Germania, ma non mi sembra di essere grave, non mi duole, mi sento soltanto indolenzito. Ho perso il fuscello di bocca, che sfortuna!» Il suo viso tornava a colorirsi. E i suoi occhi erano inspiegabilmente tutti dolcezza. Era un gran corpo rilassato sulla sedia, con quella luce incredibile negli occhi. Si rivolse a Friani. «Però te l'ho date, eh? E ora ci tornerai sul lavoro?» A Metello disse. «Anche tu, persuadili. Ormai quello che si è fatto, si è fatto. Di più non è possibile. Loro, lo vedi? Sparano. Mica lo sanno, Dio, che tanto di qua che di là ci sono dei padri di famiglia. È che la disperazione che ci mette gli uni contro gli altri. Vaglielo Dio a far capire!» «Non bestemmiare, bestemmiando cosa rimedi?» gli disse Santino. «Oh, Albertario mio, quando ci vuole!» Gli vide il graffio sulla fronte e sorrise. «T'hanno cresimato!» gli disse, e sospirò. «Ora mi dovranno cavare la pallottola. Certo è rimasta dentro. Da parte a parte non m'ha passato. Si sarà fermata su un osso. Perderò altri 2 o 3 giorni, vuoi vedere? Con la situazione che ho a casa...» «Non ti agitare», disse Metello. «Ma se io sto meglio di te, coglione!» La camicia sul petto, un palmo sopra il cuore, si era arrossata appena. Un cerchietto largo quanto doveva essere largo il foro, quasi. «Del diametro d'un 10, si disse poi. Così sembrò, dopo che gli ebbero denudato il torace. A stagnare il sangue erano bastati i peli. Nardini gli mise sopra un batuffolo intriso di tintura di iodio. «Ti brucia?» Sulla porta, Badolati parlava coi poliziotti. Il brigadiere spolverava il tubino, passandoci la manica della giacca. «Meno male», ripeteva l'ingegnere. «Sembra una ferita leggera, meno male. Mi pizzica, non mi brucia». Al di là si intravedeva lo sterrato, dove i soldati, respinti curiosi ai margini della ferrovia e della massicciata, riunitisi su 2 file, stavano in posizione di riposo, ma ancora coi fucili saldi nelle mani e il colpo dentro la canna, dinanzi a quegli uomini, gli scioperanti e i crumidi, ora più che mai, l'uno all'altro vicino sotto il sole. Se qualcuno si era allontanato, non ci se ne accorgeva. «Sono degli stupidi», disse il tedesco. «Ma perché non si mettono all'ombra dietro le impalancate?» «Lascia perdere, non te eccitare. Ora viene la pubblica assistenza, e domani stai meglio di ieri», Metello disse. «È andato Parigi a chiamarla, ci vorrà un quarto d'ora». «Eh sì, la lettiga m'ha bisogna. A piedi non ce la farei fino all'ospedale. Se in corsia ti mettono accanto ad Aminta, non ricominciate». «A patto che non ricominci lui, Dio!» «Albertario caro, ti sembra questo il momento in cui dovrei dire le orazioni?» Santino gli rimise sulle spalle la camicia e Metello gli ravviò i capelli con la mano. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it